Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Lorenzo Pasini dei Pinguini Tattici Nucleari. Lorenzo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti quanti. Hai avviato un nuovo progetto solista, Material Fields, da qualche tempo. È uscito anche il primo singolo, il 25 febbraio, Low Lights. Ti volevo chiedere, vorrei iniziare questa intervista chiedendoti se ci puoi raccontare di più rispetto a questo tuo nuovo progetto. Certo. Allora, è successo che, come molte persone, durante il primo lockdown mi sono trovato con un sacco di tempo da utilizzare e spontaneamente mi sono messo a scrivere. Dopo qualche mese mi sono reso conto che tanto del materiale che avevo raccolto risultava coerente, risultava come se fosse materiale scritto apposta per un progetto, e solo che non avevo nessun progetto che potesse accoglierlo, nel senso che non è materiale che va bene per i Pinguini, non è materiale che va bene per nessuno degli altri progetti che avevo in essere. Quindi ho pensato di avviare questo nuovo gruppo, che per il momento è un progetto solista, ma poi chi lo sa, magari domani entrerà qualcun altro. Tu facevi riferimento a questo nuovo progetto che non puoi, diciamo, portare avanti ad esempio con i Pinguini. Io ti volevo chiedere quali sono un po' le sonorità e le caratteristiche che differenziano questo tuo nuovo progetto, e nello specifico anche se hai voglia di parlarci di questo nuovo singolo Low Lights. Certo. Allora, diciamo che l'ispirazione per questo tipo di musica che ho prodotto è molto più internazionale, diciamo, fa molto più riferimento alla scena progressive, soprattutto quella moderna, in realtà più che quella storica, quindi gente come Steven Wilson, i Porcupine Tree, Pineapple Thief, tutta quella scena lì. E chiaramente risente anche del mio amore per l'industrial rock, per esempio, dei Nine Inch Nails, o di tutta la musica, di parte della musica anni 90, come può essere Jeff Buckley, come può essere un certo tipo di grunge, tipo quello di Soundgarden. Quindi diciamo che parte da questo tipo di stimolo artistico, da questo tipo di bisogno di espressione. E Low Lights praticamente parla un po' del mio rapporto con la spiritualità a livello lirico, nel senso parla della spiritualità non intesa come religione, perché spiritualità e religione vengono spesso accostati, ma secondo me non sono la stessa cosa. La spiritualità può essere anche laica, può essere anche il rapporto con la tua parte che non senti come solo cervello, se vogliamo chiamarla, se vogliamo dire così in maniera sintetica. E secondo me viviamo in un periodo, in un mondo che non favorisce questo tipo di riflessione, non lo favorisce per niente, e spesso io mi sono trovato come nella sensazione di essere immerso in qualcosa ma non sapere bene identificarlo, non avere chiaro un percorso per seguire questa cosa. E Low Lights parla proprio di questo. Low Lights, che tra l'altro anticipa l'album che uscirà questa primavera, e ti chiedo se hai voglia di anticiparci qualcosa rispetto a questo nuovo album, se ci saranno delle collaborazioni, se hai voglia di raccontarci anche qualcosa sugli altri brani contenuti all'interno di questo album. Allora, non ci saranno collaborazioni, nel senso che l'album l'ho scritto e prodotto e per la maggior parte registrato da solo. Mi sono abbassato di un po' di collaboratori per la registrazione di musicisti più bravi di me nei loro strumenti, sicuramente, come Marco Paganelli, tra l'altro il batterista dei Rovere, che si è occupato delle batterie, come anche del mix e del master, e Paolo Salvi al pianoforte e Cristiano Marchesi al basso. Però la parte di scrittura e produzione l'ho, come si dice, seguita io. E l'album sarà in realtà abbastanza eterogeneo, c'è un grosso filo conduttore, credo che si senta che tutti i pezzi appartengono allo stesso progetto, questo assolutamente, ma è molto eterogeneo, nel senso che si va da un pezzo come Low Lights, un pezzo più tipicamente rock, se vogliamo, a pezzi più ispirati magari a struttura alla James Blake, quindi molto più intimi, o c'è anche una ballata, per esempio, c'è un pezzo molto più lungo con un assolo di sax e parte in poliritmi più legato al mio amore per il progressive. Quindi diciamo che è un album che trae ispirazione da tanti universi diversi e spero di essere riuscito a tradurli tutti in maniera piuttosto coerente. Lorenzo, io ti ringrazio di questa chiacchierata e ti auguro una buona fortuna per l'uscita di questo nuovo album, ma in generale per questa tua nuova avventura con questo progetto da solista. Grazie mille, in bocca al lupo anche a voi. Grazie, ciao. Ciao, ciao.